4 mattino. Caro Simone, mi puoi dare un aiuto? Mio figlio vuole andare a trovare la fidanzata a 2 chilometri dal suo paese con l'auto da solo e non sa cosa fare, se ci può andare o meno. Sono un ciclista da tante migliaia di chilometri all'anno, ma io non me la sento di uscire in bici, cadere, finire in un pronto soccorso, andare a intasare la sanità. Stiamo a casa. Sono preoccupata perché vivo in Olanda, tutta la mia famiglia è al sud, hanno chiuso tutti gli spostamenti aerei, Ryanair ha chiuso i voli per l'Italia e dall'Italia, non troverò più un modo per tornare a casa né per la mia famiglia di venire qua. In questo periodo in cui qualsiasi cosa succedesse vorrei che mi fosse possibile tornare a casa, ma ovviamente capisco le misure. Dai ragazzi, dai. Siamo vicini a lei, così come a tutti, a tutte le persone che vivono questa situazione. E con grande responsabilità ha deciso di non muoversi, di rimanere in Olanda, a differenza di altri. E gliene va dato atto, merito alla nostra ascoltatrice che non si è firmata. Oh, il vostro nome ditelo, che ci fa piacere. Se non sbaglio, ieri è stato denunciato un ragazzo che ha provato ad andare dalla sua fidanzata che abitava in un altro comune. Quindi occhio, non è considerata necessità, urgenza. Attenzione, come avete sentito prima, però i margini di interpretazione su queste norme sono abbastanza ampi al momento. Però... è una questione, ripeto, di responsabilità personale. Meglio evitare. Ci si vuole bene, ci si ama al limite, ci si telefona, ci si vede su Skype o tramite qualche altro sistema di videoconferenza. Insomma, siamo qua tutti quanti e tutti nella stessa situazione. Vi aspetto al 349-238-6666 per i messaggi, soprattutto audio. Alle 7:20 minuti di questo mercoledì 11 marzo iniziamo la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Care amiche e cari amici, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Iniziamo come sempre dalle prime pagine dei quotidiani. Dai titoli principali, virus estesi a tutti i rimborsi babysitter, congedi retribuiti per i dipendenti, è il titolo del Sole 24 Ore, il quale parla anche di un fondo europeo per l'emergenza e di un governo che si prepara a varare un deficit di 13 miliardi. Abbiamo la Lombardia che chiede più chiusure sul Corriere della Sera, in apertura, così come per la Repubblica, non basta ancora, è il titolo principale. Virus tasse mutui sospesi è quello del Messaggero. Chiudere tutto è quello del Quotidiano Nazionale. Lombardia allo stremo blocco totale è il titolo della Stampa. Serrata in Lombardia ma Confindustria dice no è il titolo del Fatto Quotidiano. Più ristretti di così è quello di Avvenire. Fuori le mascherine, fuori anche i soldi, quello del Giornale. Paese in ginocchio, subito aiuti sanitari ed economici chiedono dal Quotidiano. Gente in stato confusionale è quello il titolo di Libero. Ordini e controordini creano solo caos. Gli italiani non comprendono le direttive del governo. Ressa ai supermercati, ognuno fa per sé. Si gira indisturbati, scarsi controlli delle forze dell'ordine. La verità, in Italia il virus uccide di più perché mancano i posti letto. Questo il titolo. Il manifesto penisolati. E la Gazzetta dello Sport che sì, intervista Malagò di taglio alto e dice giusto fermare tutto lo sport e ripartiremo così, il titolo principale ce l'ha sull'Atalanta. Grazie Dea, storica gioia per Bergamo nell'ora più buia. E anche qua torna la citazione di Winston Churchill, la stessa utilizzata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sulla quale si sono sprecate un po' di ironie. Iniziamo la nostra rassegna stampa, però da qualcosa di diverso rispetto al coronavirus. Poi ci torneremo alle 7.30, ne parleremo, torneremo a parlarne diffusamente anche con Paolo Mieli. Insomma, vi racconteremo un po' di cose che ci sono sui giornali e ce ne sono ovviamente tante, a partire da un sacco di domande e risposte su cosa si può fare e cosa non si può fare sulla base del decreto varato dal governo. E però, a testimonianza, insomma, di un paese che, nonostante tutto, vuole provare a funzionare, vuole provare a ripartire, c'è la questione di Ponte Morandi. E iniziamo proprio da qua. Fatemi iniziare quindi da qualcosa di buono nella giornata di oggi. E siamo a pagina 14 del secolo XIX, le sponde del Polcevera di nuovo unite. Toti, ora sappiamo che ce la faremo, perché che cosa è successo ieri? Che è stata varata la campata del nuovo viadotto, quello che sostituirà Ponte Morandi, come sapete, crollato il 14 agosto del 2018 con le sue vittime. Ebbene, si è stata varata la campata del viadotto sul torrente Polcevera, che avvicina la riapertura di via Perlasca a Genova. In cantiere, ovviamente, massime precauzioni per il coronavirus, ma si continua a lavorare. L'acciaio del ponte nave taglia in due il cielo della vallata, scrive Roberto Sculli appunto a pagina 14 del secolo XIX, e le due sponde del Polcevera sono di nuovo unite. Si è conclusa con le prime luci dell'alba l'ascesa della seconda campata lunga del nuovo viadotto, che in pochi mesi ricongiungerà i due tronconi della A10 spezzata dal crollo del 14 agosto del 2018. Il colosso da 1800 tonnellate si è staccato dai supporti piazzati nel greto del torrente poco dopo le 22 di lunedì, dove era arrivato al termine di una manovra quasi acrobatica, e in circa 8 ore ha compiuto la sua ascesa. L'immagine di questa mattina porta con sé diversi sentimenti, dice il sindaco di Genova, che è anche commissario per la ricostruzione, Marco Bucci. Orgoglio, emozione, ricordo, ma anche speranza nel futuro. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno. E dunque il Ponte Morandi, il ponte, o meglio il nuovo ponte, insomma, viene ricostruito in queste ore, e ieri è stata posata tra lunedì e martedì appunto questa nuova campata, un colosso da 1800 tonnellate. Tra l'altro, insomma, continua a girare, no, questa ipotesi del governo di utilizzare lo stesso metodo per far ripartire le opere pubbliche. Anche questo dovrebbe essere un segnale per l'economia, un commissario per ogni opera. Cronache le trovate un po' dappertutto, buona anche quella sul Corriere della Sera, pagina 23, ma vi voglio invece portare a Bolzano per una vicenda che purtroppo è abbastanza tipicamente italiana. È la vicenda di dolorosa di una donna uccisa. Si tratta di Barbara Rauch, 28 anni, uccisa l'altra notte a San Michele a Piano, provincia di Bolzano. Era la titolare di un'enoteca, di una vinoteca, si chiamava Bordeaux Keller, ed è stata uccisa dal suo stalker. Il divieto di avvicinarla era scaduto. L'ha uccisa a coltellate poco dopo l'orario di chiusura, racconta Marco Angelucci a pagina 22 del Corriere della Sera. Un omicidio annunciato che arriva dopo anni di stalking. La vittima, Barbara Rauch, 28 anni, era titolare di una vinoteca nel centro di Appiano, la Bordeaux Keller. È lì che il suo ex fidanzato, Lucas Oberhauser, un cuoco di 25 anni di Terlano, l'ha aggredita e assassinata nel cuore della notte. A dare l'allarme il compagno Philip, che non vedendola rientrare è andato a cercarla nel bar e l'ha trovata riversa all'interno del locale, e si scopre alla fine che questa è una storia lunga. Lei con il suo nuovo compagno Philip aveva avuto anche una figlia. Lo scorso anno la coppia aveva aperto questo locale, e questo Lucas, questo suo ex fidanzato, non aveva mai accettato che Barbara avesse una propria vita e da tempo la perseguitava. Lei aveva fatto molte denunce. Il 7 giugno scorso, dopo numerosi atti di stalking, era stato anche arrestato. Da poco era tornato a piede libero. I provvedimenti restrittivi emessi dal tribunale, il divieto di avvicinamento e l'obbligo di firma, erano scaduti a dicembre, e non è chiaro perché non fossero stati rinnovati, visto che la faccenda era tutt'altro che chiusa. Il fascicolo era ancora aperto e tra un paio di mesi si sarebbe dovuto aprire il processo a suo carico, ma nell'attesa, lunedì sera, Lucas si è sentito libero di colpire e dunque ha aspettato che fosse sola all'interno dell'enoteca che gestiva e l'ha uccisa. Ci sono le riprese della telecamera di sorveglianza, ma soprattutto c'è questo interrogativo che permane: come è stato possibile che quest'uomo, che era stato già denunciato per stalking, insomma queste misure restrittive che gli erano state imposte, tra cui il divieto di avvicinamento, l'obbligo di firma, fossero scadute e nessuno avesse pensato a nulla. Una pausa. Le 7:33 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, non ve l'ho ricordato prima, ma lo sapete, siamo sempre in diretta anche sulla pagina Facebook di 24 Mattino, su quella di Radio 24. A proposito, sulla pagina Facebook di 24 Mattino andateci, cliccate mi piace, visitatela, perché insomma nei prossimi giorni ho intenzione di moltiplicare le dirette anche fuori dal programma, così ci stiamo un po' più vicini, per quanto possibile, a distanza sempre naturalmente. Sono tutte le vostre domande. Sandro che dice: posso andare a fare il tagliando all'auto, lasciare la mia auto, tornare a casa con l'auto in sostituzione fornita dall'officina? Sandro, è meglio di no. È meglio starsene a casa. Cioè, se non è proprio, se non è una cosa urgente, per cui è un problema di salute, oppure devi andare al lavoro? No. Ok? No. Qualcuno ci scrive invece: il traffico a pieno regime, vediamo dove, in provincia di Modena sembra tutto come sempre, poi insomma nemmeno un posto qualsiasi, Modena, dove già insomma i casi sono un discreto numero. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccomi, buongiorno, buongiorno. Allora, sono pienamente d'accordo. Meglio evitare. I giornali enfatizzano il fatto che ci sono le città vuote, ma c'è ancora molto, moltissimo da fare, e per quello che vedo anch'io, riesco a vedere anch'io, le città sono ancora troppo piene rispetto all'emergenza. Ieri abbiamo superato i 10.000 casi, insomma siamo ancora a metà del cammino. Delle cose importanti sono state fatte, ma bene fa il Sole 24 Ore a mettere in prima pagina una foto grande di Xi Jinping. Sì. Xi Jinping, come è noto, il leader cinese, che ieri ha potuto recarsi a Wuhan. C'è un ottimo articolo di Stefano Carrer, sempre sul Sole 24 Ore. Sì. Per congratularsi con... Ti correggo solo su una cosa, su una cosa, è Carrer. Ti correggo solo su questo, direttore. Stefano Carrer, ok, vai. Stefano Carrer, grave errore. Prego. E che appunto è potuto andare a Wuhan, la città epicentro di focolaio di questa, dove ieri non ci sono avuti nuovi contagiati, e questo vuol dire che la cura ha funzionato. Ricordiamolo, non ci sono ancora medicinali adatti a fungere da vaccino e né a curare con efficacia certa, certificata, questo tipo di malattia. La questione centrale non è per il momento sui medicinali, ma sui posti letto. E il dramma che viviamo noi, che rischiano di, anzi speriamo non vivano altri paesi europei, è quella che, avendo più posti letto e più posti per le cure estreme ai malati estremi, potrebbero avere un minor numero di morti. Noi abbiamo avuto tagli alla sanità negli ultimi 10-20 anni molto molto forti, per cui questi posti letto non abbiamo, nonostante lo sforzo eroico dei medici. Allora, dicevo, il presidente cinese e Guido Santevecchi sul Corriere della Sera nota una cosa assai curiosa. Sì. I giornali danno, cinesi adesso danno grande enfasi all'Italia, e questa cosa del dare grande enfasi all'Italia, dicono, cioè, trattano noi come noi trattavamo i cinesi un mese fa. La stampa di Pechino ora dà grande risalto Ieri ha lanciato una grande notizia che sarebbe suonata fino a poco tempo fa con una battuta, virgolette, la Croce Rossa cinese sta valutando la possibilità di inviare una squadra medica in Italia, certo, oltre a rifornirci di medicinali e di mascherine e di ventilatori, adesso è la Cina che può permettersi di venire in soccorso in Italia. Ben inteso, non è che in Cina la crisi sia finita, però i morti sono davvero pochi. Poi un giorno faremo un bilancio, perché anche la Cina ha ritardato l'annuncio, siccome era in atto il Capodanno cinese, loro prima si sono fatti belli belli il Capodanno cinese e poi hanno dato l'annuncio. Un po', come dire, stanno seguendo la parabola che hanno seguito un po' tutti i paesi europei. Prima una sottovalutazione, poi la comprensione delle dimensioni della cosa. Che è un po' la parabola che mi pare stiano seguendo gli Stati Uniti, soprattutto dalle parti della presidenza americana, con Donald Trump, appunto, che su questo coronavirus ha detto lo sconfiggeremo sicuramente, poi ha detto che ci sono pochi casi, poi ha fatto l'amministrazione americana un po' di confusione sul tema dei tamponi, perché ha rifiutato i tamponi, quelli previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Center for Disease Control ha detto facciamo i nostri, solamente che i loro erano sbagliati. Fatto sta che oggi siamo a 1000 contagiati e 30 vittime negli Stati Uniti, però di numero di contagiati vero non si sa quanti siano, perché i tamponi sono in ritardo, no? Tra l'altro, tra i contagiati, cosa non di poco momento, c'è una persona che Trump ha incontrato recentissimamente e quindi c'è grande apprensione su Trump. I giornali raccontano tutti questi che Trump dice no, io il tampone non ho bisogno di farmelo, sono sicuro, perché fa l'ottimista e come dice un articolo di Riccardo Barlam, questo l'ho pronunciato giusto? Sul Sole 24 sì, ore sì, Barlam sì, sì. Contro il virus Trump punta sui tagli alle tasse dei lavoratori. Vorrei segnalare che c'è un fronte che viene chiamato dal giornale il Circolo Mondiale dei Negazionisti, a cui oltre a Trump si aggiunge Elon Musk e ai suoi 32 milioni di seguaci su Twitter. Ha scritto il panico da coronavirus è stupido, sono tutte fesserie. C'è ancora un grande fronte, anche in Italia, lo vediamo nei dibattiti televisivi, di persone che dicono ma no, è tutta un'idiozia, attenzione, attenzione, perché non è tutto un'idiozia. E invece fra le sorprese, sempre sul giornale, l'Istituto Bruno Leoni, che è un istituto che è un custode del liberalismo italiano, dice chiudere tutto è da liberali. Insomma, ha varato un documento in cui dice, in cui sostiene che sono i liberali in queste situazioni, vogliono chiudere tutto. Ascolta, visto che insomma, ormai lo facciamo quotidianamente quando ci sono appuntamenti di questo genere, abbiamo parlato di Stati Uniti, anche se sui giornali non c'è un commentino da parte tua, Paolo, lo vorrei, sul tema delle primarie di questa notte. Allora, Michigan, Missouri e Mississippi vanno a Joe Biden, ok? Quindi si assicura tre stati importanti, su alcuni altri i conteggi sono ancora in corso in questo mini Super Tuesday. Con Biden che tra l'altro annulla i comizi in Florida e Ohio esattamente per questioni che hanno a che fare con il coronavirus. Detto ciò, è un altro passo verso la candidatura alla presidenza per Joe Biden, eh? È un altro passo verso la candidatura, e l'ultima cosa che hai detto è particolarmente interessante, perché a differenza di Trump, Biden sta dando grande enfasi al coronavirus. Non fa che ripetere attenzione, annulla, come tu hai appena ricordato, i comizi, e a questo punto molti osservatori pensano che il coronavirus, se come sembra, e ci sono molti indizi, attecchisce negli Stati Uniti, potrebbe essere il famoso cigno nero, ormai tutti ne parlano di questo cigno nero, cioè la notizia eccezionale che capovolge anche il destino delle elezioni statunitensi. In che senso? Nel senso che può provocare una crisi economica e provocare anche un dito indice puntato contro Trump, che viene accusato, verrebbe in questo caso accusato, di aver sottovalutato eccessivamente, perché lo sta sottovalutando, mentre invece in Europa, Gran Bretagna compresa, io continuo a considerare la Gran Bretagna come parte dell'Europa, questa imminenza di una grave crisi provocata dal Covid-19 non è più trascurata. Adesso se ne sono accorti tutti, soprattutto Germania, sì, Francia, sì, e Spagna. Sì, soprattutto, mentre... mi pare di capire, soprattutto la Germania, con Angela Merkel che ha dichiarato ieri, guardate che si ammalerà il 60-70% della popolazione. Ha detto, cioè, su questo non c'è niente da fare. Detto ciò, hanno quattro volte i posti letto che abbiamo noi negli ospedali, quindi sono probabilmente... Il discorso torna all'inizio, il problema è quello dei posti letto e speriamo che da questa crisi, che dovrà essere vissuta per necessità fino in fondo, traiamo questo insegnamento che i tagli alla sanità prima o poi si pagano. In tutto questo, sì, scusami, prima, prego, che chiudiamo questa prima parte, Putin ne ha approfittato nella distrazione del mondo per farsi confermare monarca assoluto. C'è anche questo, Fabrizio Dragosei sul Corriere della Sera, un articolo di Rosalba Castelletti su Repubblica, monarca assoluto della Russia fino al 2036, sì, basta rivoluzioni nel paese, ha detto, azzera il conteggio dei suoi mandati per restare al potere 36 anni, credo, sì, che sia uno, compresi gli zar, uno dei profili di durata al potere fra i più lunghi. Più lunghi l'articolo sul Sole 24 Ore di Antonella Scott: Putin rimette indietro l'orologio, continua a fare il presidente e si è dichiarato disponibile a ricandidarsi. Mi piacciono questi modi così cortesi di mettersi a disposizione. L'opposizione però, che già c'è, ha detto che qua è in scena un colpo di Stato e che bisognerà lottare contro questo colpo di Stato. Traffico. Stanno arrivando ovviamente molti messaggi dagli ascoltatori. Intanto uno, visto che insomma, questa trasmissione è discretamente ascoltata, ci chiede di fare un appello e noi lo facciamo volentieri. Non andate in banca per delle scemenze, è il posto peggiore nel quale andare. Tra l'altro, spesso ci scrive qualche ascoltatore, abbiamo un po' di bancari che ci ascoltano, insomma, chi va in banca solitamente è anziano, cioè ha un'età piuttosto elevata. Non andate in banca, non andate in banca, ok? È il posto peggiore, andateci il meno possibile. Usate l'online, fatevi aiutare da figli, nipoti che vi spieghino come funziona la banca online e cercate di stare a casa e non andarci per delle scemenze. Un appello che raccogliamo volentieri. Allora, veniamo alle questioni italiane, appunto, caro Paolo, dove a dominare la scena è sicuramente la richiesta della Regione Lombardia, che è in apertura su molti quotidiani, il Corriere della Sera, La Repubblica, il Fatto Quotidiano, la richiesta della Regione Lombardia e delle opposizioni sostanzialmente di chiudere tutto, quantomeno in Lombardia e in alcune altre regioni. Parleremo più avanti alle 8:20 con l'assessore alla sanità lombardo Gallera, avremo anche il presidente della Regione Piemonte Cirio che appoggia questa richiesta. Insomma, però è questo il punto centrale della giornata di ieri, mi pare, no? Sì, questo è il punto centrale, perché ha avuto due epicentri questo punto. Uno, quello che tu hai appena ricordato, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che chiede di chiudere tutto, significa lasciare aperte solo le farmacie e i supermercati, che peraltro, voglio ricordarlo, sono ben forniti, quindi è inutile andare a fare assalti ai supermercati, vengono riforniti due volte al giorno, insomma sono tranquilli, e il resto chiuderlo tutto. Poi suggerimento alle persone, non di non uscire di casa, perché uscire a fare due passi in un ambiente deserto lo possono fare, di non andare mai in posti dove si possono ritrovare in più di due, quindi se vanno in un parco, fanno una passeggiata, lo possono fare. Questo è il progetto a questo punto della destra, del centrodestra italiano. Voglio notare a questo proposito però che neanche il centrodestra ha tutte le carte in regola, perché sia Salvini sia il governatore del Veneto, quando furono fatte le prime Zaia, quando furono fatte le prime ordinanze, dissero no, sono eccessive, adesso cosa si vuole fare, insomma non è adesso il momento dei bilanci, ma poi quando lo faremo dovremo rivedere bene tempi e modi in cui ognuno disse qualcosa. Ma sì, per quello che riguarda l'oggi, il Presidente del Consiglio invece tentenna, dice ma sì, vediamo, siamo aperti a questo. Ieri c'è stato un incontro con l'opposizione, tutti i giornali e tutti i notisti politici sono stupiti di questi tentennamenti di Conte. Secondo loro, secondo l'opinione unanime, direi a questo punto tentenna sia per i tempi, che gli piace arrivare per ultimo quando tutti sono ormai d'accordo e la scelta è evidente, e poi teme, questo dicono tutti gli osservatori, teme che gli venga imposto un Bertolaso, De Gennaro, cioè un super commissario che nei fatti, come immagine, sconfesserebbe il suo operato fino a questo punto. Certo. I giornali danno notizia che è morto un consigliere leghista a Piacenza, la prima vittima fra i politici, si chiamava Nello Pavesi, era consigliere comunale a Piacenza. Danno notizia anche sì dei contagi che crollano nella rivincita di Codogno. Ieri a Codogno non ci sono stati nuovi contagiati, la nostra One. Da notare però che il crollo dei contagi, lo ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori, non tiene conto, cioè manca un pezzo del dato della Lombardia, e quindi è presumibile in realtà che questo crollo dei contagi a tutti gli effetti non ci sia stato. Lo diciamo non per creare allarmismo, ma semplicemente perché la cosa è nei fatti, insomma. I dati son positivi, quelli di ieri, ci sono più contagi, però non così tanti come ci si aspettava, però manca il dato di un pezzo, tra l'altro importante, della Lombardia. Pare una cosa che non mi può sfuggire, che il giornale più simpatizzante nei confronti del sindaco di Milano, Beppe Sala, oggi pubblica un articolo di Piero Colaprico molto critico nei confronti di Sala, fin dal titolo. Il testacoda di Sala, da Milano non si ferma, era il suo hashtag, alla città bloccata, e registra con grande forza, insomma, con anche una punta di perfidia, registra il fatto che Sala si è dovuto rimangiare tutta la campagna che ha fatto fino all'altro ieri, cioè dicendo no, Milano continua a essere operativa. E l'aperitivo, però, l'aperitivo con Zingaretti, ricordiamo, no? L'aperitivo con Zingaretti, poi risultato positivo. Non aggiungere perfidia, basta quella di Repubblica, non devi essere tu. No, per carità. No, sto cercando di scherzare anche in un momento così drammatico, però Sala per Repubblica è sul banco degli imputati, sia pure anche Repubblica sostiene che non è il momento questo di fare i bilanci, e c'è una spaccatura, una divisione anche in Confindustria, dobbiamo registrare, nel senso che Confindustria è prudente su questa ulteriore stretta chiesta dalla Lega, ma Bonometti in Lombardia dice invece di essere d'accordo con Fontana e con Sala. Questo per dare un quadro, nel senso che qualche dubbio ci può essere. Ma torno a una cosa che tu hai detto all'inizio, l'alternativa sembra essere questa: meglio strette come quella attuale, che già è enorme, a metà, che poi però non risolvono la situazione, o una stretta che possa durare 15-20 giorni generale, in cui tutti stanno a casa, anche l'attività produttiva si ferma, e però fra 15-20 giorni potremmo avere il sollievo che capiti come a Codogno o come a Wuhan, ecco, diciamo, perché Codogno può esserci i dati non riferiti, quello che hai appena ricordato, e mi sembra che dal paese salga, da quello che percepisco, salva una richiesta di misure estreme, dire guarda, se dobbiamo fare, meglio fare 20 giorni, 15-20 giorni di stretta assoluta, e che ce ne rimaniamo davvero tutti a casa e non usciamo per nessun motivo, soprattutto sì, per tutte delle cose inutili, piuttosto che portarcelo avanti per mesi e non risolvere sì, il problema. A volo d'uccello, sul Sole 24 Ore trovate un po' di dettagli su quelle che sono le misure economiche che si stanno ipotizzando sia dal fronte europeo sia dal fronte italiano, con la dota di 15 miliardi da extra deficit, i primi 10 al decreto aiuti, con Marco Rogari e Gianni Trovati a pagina 5, un'intervista alla ministra Bonetti a pagina 6 della Stampa sul congedo parentale 15 giorni anche per i papà. Un po' di giornali pubblicano domande e risposte su cosa si può fare, cosa non si può fare. E infine, molto rapidamente, Paolo, la questione dei detenuti. Sono 12 morti, tutti per overdose, dopo aver assaltato le farmacie interne, dopo le rivolte carcerarie dei giorni scorsi. Il Riformista chiede l'indulto urgentissimo, scrive il direttore Piero Sansonetti. In un articolo molto ben fatto sul Manifesto di Nora Marchini, che racconta che c'era anche un contagiato, dice appunto che oggi Bonafede riferirà in Parlamento. Più ottimista l'articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, che dice che la protesta sembra rientrare, ma tutti, sai qual è il minimo comune denominatore? Che anche qui, come per la sanità, tutti dicono: beh, abbiamo tagliato, non abbiamo pensato a nuove carceri, abbiamo avuto paura di misure come l'indulto, addirittura l'amnistia, per non essere impopolari, e oggi quella che abbiamo avuto della rivolta delle carceri e dei 12 morti può essere solo una prima avvisaglia, perché se la crisi diventasse più acuta è ovvio che ci troveremo, se trovassero contagiati nelle carceri dovremmo aprire le carceri, oppure segnarli tutti a morte certa. Allora, grazie anche per oggi a Paolo Mieli, grazie direttore, ci ritroviamo venerdì come sempre, GR24, a tra poco con Maria Latella parleremo con le regioni del nord e poi con il viceministro dello sviluppo economico Buffagna, a tra poco.